E bentornati ai microfoni di Radio Wombat con la diretta di Coccoli al Silicio. Erano un paio di settimane che saltavo e avrete sentito per diverse settimane la stessa replica. E in realtà avevo fatto anche una diretta, ma poi mi sono dimenticato di caricarne il podcast, quindi è stata sostanzialmente un'opera unica, probabilmente anche in orario sbagliato. Se eravate ai microfoni all'ascolto della radio in quel periodo, e sono insomma intorno alle 4 del pomeriggio, l'avete sentita, altrimenti no, e non la sentirete mai perché non so neanche più dove l'ho messa. Comunque non era probabilmente niente di che, pazienza, è così. E in questa puntata nuova, però, invece abbiamo un sacco di ghiotte notizie. In particolare voglio aprire con un evento che si sta quasi già svolgendo a Milano. Intuirete che io non sono lì perché sono ai microfoni di Radio Wombat e non sono in diretta da Milano, giuro. Però dei nostri inviati sono andati e si tratta di connessioni caotiche. Che un altro di questi incontri che vi avevo già sponsorizzato in passato, ne è avvenuto uno a Napoli un mesetto fa, un altro a Bologna, che poi vi relazioneremo nel dettaglio venerdì prossimo. E questo invece è un'anteprima, è qualcosa che sta accadendo ora, o quasi, nel senso che l'inizio è segnato da programma per le ore 18 di questo venerdì, quindi mancano 2 ore e mezza. Fa affari loro, cioè tanto io sono qua che mi frega. Però l'incontro è abbastanza interessante. Si parlerà, vi leggo sotto titolo, di Hacking Arte, Attivismo, Making e Breaking in Festival. Non è breaking nel senso che se balla, io ad esempio sì, cioè io so a ballare questa sera il breaking, ma non è di questo qua, sì, breaking in è un'altra roba, inventatela voi, io non lo so tutti i termini inglesi, non li capisco, cioè nel senso che non ne so il significato di tutti, quindi non mi arrampico a spiegarvelo. Se volete sapere che cos'è breaking in, andate a Milano e dite che è breaking in e loro ve lo spiegano forse. Sì, sempre leggendo dal sito di Macao Milano, ve lo dico anche, questo è facile, non devo neanche fare lo spelling, www.macaomilano.org e cercate poi connessioni caotiche, il programma tutto, se dopo che ve l'ho detto vi siete incuriositi. Comunque, sempre dal loro sito, loro spiegano che è un'occasione ed uno spazio di incontro per le realtà hacker, maker, artistiche che si approcciano alla tecnologia in modo critico e creativo. Un luogo ed un tempo di incontro e condivisione transdisciplinare legato alla tecnica visiva dal nostro lato più umano, per svincolarla dalle logiche produttive e approcciarla in modo costruttivo, per pensare e ridisegnare il suo apporto alla società ed esplorarne le ripercussioni estetiche e creative. Sembra una bomba così sulla carta. Si svolgerà appunto venerdì 10 e sabato 11 nello spazio di Macao a Milano, quindi se non siete ancora partiti per Milano e decidete di fare un colpo di testa e andare a Milano, volendo potete anche andare qua. Vi dettaglio un pochino il programma. Allora, alle 18 inizierà un laboratorio di elettronica di base, recupero e riutilizzo, quindi smonterete presumibilmente pezzi dei vostri elettrodomestici vari e imparerete forse a cosa farne per riutilizzare e non buttare via proprio tutto, o anche magari riutilizzarli del tutto, pensa che bomba. Questo laboratorio in realtà è diviso in due parti, e la prima parte è appunto venerdì alle 18, la seconda è il sabato, il giorno dopo alle 15, e quindi vi ho già dato un'anticipazione sul sabato, forte. Poi alle 20, quindi presumibilmente allora dopo cena o cena, non lo so, magari fanno l'aperitivo, l'apericena, e quindi potete stare lì e mentre sorseggiate un cocktail e mangiate una patatina, vi ascoltate anche Raw Socket, Packet Sniffer in C, libc only, e vabbè, diciamo il relatore è il signor Unit. Invece il relatore di prima era il LEP, che sarebbe Laboratorio Elettronica Popolare. Me la sono cavata, pensavo di non saperlo. E Packet Sniffer in C, libc only, ve lo spiego io per i non. Insomma, per chi in effetti Packet Sniffer in C non dice niente, C trattasi di linguaggio di programmazione, il C. Packet Sniffer sarebbe un coso che sta sulla vostra macchina e sostanzialmente analizza il traffico internet dell'internet è diviso in pacchetti, per questo si chiama packet sniffer. Forte. Libc only significa che utilizza soltanto la libc per farlo, e questa roba qui diciamo è un po' più per amatori, insomma. Alle 19, cioè un'oretta prima, presso il caffè letterario, c'è anche Public Money, Public Code, sensibilizzazione delle pubbliche amministrazioni all'impiego esclusivo di software libero. Questa roba qua è senz'altro più seguibile, e sostanzialmente penso che sia un ragionamento sul fatto che se le amministrazioni sono pubbliche dovrebbero utilizzare del software non proprietario, perché altrimenti ci si lega ad un'azienda, e che sembra brutto, no? E anche se un po' la nostra vita è così, nel senso che è pieno di aziende che in qualche modo gestiscono pezzi della nostra esistenza, quindi non è che sembrerebbe poi così strano, però diciamo che non è bello che è così, cioè che sia così, e quindi penso che questo talk vada nella direzione contraria. Poi sempre alle, perché ci sono vari spazi, no? Perché io vi sto dicendo delle ore e queste ore ogni tanto cozzano tra di loro, forse ve lo devo dire, c'è l'aula CIL 1 nella quale c'è il laboratorio di elettronica di base, poi c'è l'aula CIL 2 nella quale c'è questo raw socket di cui vi dicevo alle 20, poi c'è il caffè letterario, il quale inizia alle 19, ma in concomitanza alle 19 presso il tempio, io non so assolutamente come che gicola sto parlando, cioè nel senso che non sono mai stato a Macao e quindi non so assolutamente come sia fatto, però evidentemente c'hanno almeno 4 spazi che sono identificabili in luoghi diversi, perché altrimenti non permetterebbe la concorrenza degli eventi. Alle 19, appunto, al tempio inizia Comunismo Futuro, cioè proiezione del documentario di Andrea Groplero, con sceneggiatura di Franco Berardi, aka Bifo, e questo è quanto. Questo dura un pochetto, perché infatti il prossimo talk è alle 21. Alle 21 inizia Noise Shadow, performance audio-video di Tony Light e Ruggero Asnago, e questa sarà una performance audio-video come da... E questa per vederla, per godersela, bisogna andare per forza. Cioè non valgono le slide dopo, non serve a niente. Alle 22 c'è Denso, musica, immagine analogica orchestrate aleatoriamente da Pure Data. Pure Data è un linguaggio di programmazione per aggeggiare la musica e l'audio, e quindi altra performance. Poi abbiamo alle 23 un'altra performance ancora, Isonef Performance, questa non meglio specificata. Alle 24, bomba, ci abbiamo Light Item, musica che sarebbe, penso, una DJ set, ma sono citati anche dei membri dei Walkie Talkie, tale Rico, oppure erano tutti membri dei Walkie Talkie, e tra parentesi, non lo so, guardate meglio il sito, comunque ci sarà qualcuno degli Walkie Talkie. E poi alle ore 3, fine giorno 1, quindi alle 3 pigliate, ve ne andate a casa e non rompete coglioni, si chiude presto e fine. Poi le 3, presto, cioè le 3 è già un'ora più che ragguardevo, io ho già sonno dalle 11 e mezza, figurati. Il sabato si rinizia sempre con le 4 aule, allora CIL 1, abbiamo già detto che alle 15 si inizia presto, è sabato pomeriggio, non si lavora, che fare di meglio se non andare a un laboratorio di elettronica di base curato dal laboratorio di elettronica popolare? Non saprei, io ci andrei se non fosse, non sono a Milano, ma se fossi a Milano correrei lì. Presso la sala CIL 2, alle ore 16, modding Game Boy, micro music fatto da Micro Music Italy, e quel modding Game Boy sarà che vi insegnano a moddare, cioè a pastrucchiare il vostro Game Boy. Se avete un Game Boy, portatevelo e poi lo pastrucchiate. Presso il laboratorio Unit, che non era citato i giorni precedenti, quindi si aprono nuove sale, hanno 5 sale, non 2, non 4. Abbiamo diversi workshop per i quali è consigliato di portare un proprio PC con Python installato. Python è un altro interprete per programmare sostanzialmente, è un linguaggio interpretato, quindi se volete seguire questo workshop godendovelo, smanettando sul vostro computer, dovete portarvelo da casa, se no, sti cazzi, se no guardate gli altri, vi sarete vicini a qualcuno, come si faceva a scuola quando non si portava il libro di storia, ti siedi vicino a uno e stai lì. E alle 15, se vi siete portati i computer, eccetera, c'è anche i robot navigano il web scraping, estrarre informazioni da internet. Questo è una roba, uno dire, vabbè, ma io lo so già fare, nel senso che io so già estrarre le informazioni da internet, guardo Google, e no, non è così facile. Non è così facile, se ne parlava proprio l'altro giorno, che in realtà la parte visibile del web è poca poca, e quindi potervi costruire, diciamo, un vostro oggetto, saper aggeggiare è utile per pigliare tutte queste tantissime informazioni e poi dargli un senso più, insomma, più utile a voi. E questo è quanto, credo. I robot sarebbe perché diciamo, i motori di ricerca, o in generale quello che spazzola al web, di solito è definito robot o spider. Così ve lo do come pillola tecnica. Poi alle 17 abbiamo un altro workshop, poesia generativa, catene di Markov e dintorni. Diciamo, l'autore, sempre il relatore, sempre Unit, che quindi inizia a parlare alle 15 e se ne va diritto praticamente fino alle 19. Morirà, poveri, cioè, portateli l'acqua. L'acqua è importante. Alle 19 inizia Costa Civios, Abstract Syntax Tree Music, che immagino sarà sempre una cosa sulla produzione musicale attraverso la programmazione in Python, perché quello è stato citato. Al caffè letterario, nel frattempo, alle 15, inizia Privacy Matters on My Phone, strumenti per utilizzare uno smartphone d'Android nel rispetto della propria privacy. E qui però c'è un inconveniente. Non è possibile, nel senso che ah no, Unit non è un singolo autore, ora ho capito tutto. No, no, Unit, ora ho capito tutto. Unit non è uno, ma Unit è un nome collettivo, perché altrimenti non è possibile che il signor Unit, capito? Inizia a parlare alle 15 nella stare al laboratorio Unit e sia anche nello stesso tempo presso il caffè letterario, dal che si deduce che Unit è effettivamente il laboratorio. Vedi, laboratorio, infatti la sala si chiama laboratorio Unit. Ora è tutto chiaro, l'ignoranza, mi devo preparare prima. Alle 16, intanto, presso il caffè letterario, dopo Privacy Matters on My Phone, c'è Linea Geos for MicroG. Cioè, come rimuovere il software proprietario dagli smartphone d'Android senza perderne le funzionalità. Bomba. E poi alle 17 c'è come liberare un EPUB, eliminare DRM dai nostri libri digitali, a cura di GLEP. Questo sembra molto interessante, in realtà, nel senso che sempre più spesso si utilizzano questi marchingegni maledetti dei DRM che sostanzialmente ti chiudono il tuo acquisto sull'internet, cioè tu compri il libro o pigli il libro, ti trovi il DRM e poi non lo riesci a passare tra un oggetto e l'altro. Cioè tentano di limitarne fortemente l'utilizzo di un oggetto che alla fine potrebbe girare tranquillamente il mondo, far felici tantissime persone, invece no. Loro vogliono che, se per far felici tantissime persone, gli devi dare anche tantissimi soldi. E quindi anche il DRM è qualcosa di proprio tremendo anche nel concetto, perché il fatto che tu hai comprato una cosa, ma ne hai comprata una, due copie a seconda del DRM, cioè nel senso che non te stesso, proprio te in quanto tale, non riesci poi a fruirne, perché magari ti funziona su un oggetto, ma non ti funziona su un altro, non puoi farne una copia, cioè allora come l'hai venduto a fare? Allora dimmi che me lo affitti e comunque qui impareremo come liberare gli EPUB da questi marchingegni schifi. Alle 19, dopo come liberare un EPUB, c'è tecnologia del dominio, lessico minimo di autodifesa digitale, presentazione del libro di Ippolita. Ippolita è un progetto di scrittori, sostanzialmente, di persone che riflettono sui temi della tecnologia e poi scrivono dei libri. Ne hanno già scritti diversi, alcuni Magari un giorno ne parleremo anche qua in trasmissione, magari li sentiremo per farci raccontare qualcosa dalle loro vive voci. Per ora sappiate che se siete insomma, a Milano a vedervi questa cosa qua, alle 19 presentazione del libro. Nel tempio, altra stanza, alle 15 inizia Game Over, che sarà una roba, non lo so, di giochini. Perché Game Over vi faranno giocare, presumo, non lo so, poi magari invece no. Alle 21 Micro Music Italy, e quindi sarà una roba musicale, che tira diritto fino alle ore 24 e poi si va di nuovo tutti a casa. È buffo che comunque il sabato sera si va a casa prima del venerdì sera, che se è stato venerdì sera si tirava fino alle 3, capito? Il sabato fino alle 24. Ma io sono favorevole perché poi la domenica giustamente uno deve alzarsi presto per andare a messa, che non ha potuto prendere la messa il sabato perché era giustamente a sentirsi i seminari a Macao e poi e quindi deve recuperare per forza la domenica. E questo è quanto. Questo era il programma di connessioni caotiche, appunto sto parlando di una cosa che avviene a Milano, se qualcuno si fosse messo in ascolto solo adesso e non capisce di cosa sto parlando? Ora ci ascoltiamo un altro pezzetto di musica funky dagli anni 70 e intanto mi preparo al prossimo argomento che vi anticipo già sarà la recensione di un bel fumetto che ho letto in questi giorni. Eccoci, tornati dal pezzo, erano se vi siete incuriositi, erano i Black Merda, e l'album che vi sto facendo ascoltare è The Fish Funk of Black Merda. Questo è quanto. E lo ascolteremo poi per tutta la puntata, quindi è sempre la stessa cosa. Non ve lo ripeto più, se l'avete capito adesso bene, se no pazienza, rimarrete col dubbio di chissà cosa ci ha fatto ascoltare. Boh. Il libro di cui vi volevo parlare è un libro che mi hanno regalato in realtà per il mio compleanno, l'ho ricevuto di recente, ed è un fumetto disegnato da Alice Milani, che è un'autrice italiana, penso che stia intorno a Pisa, insomma, e che avevo già altri suoi libri a fumetto prima. A me piace molto come disegna, come acquarella, e in questo libro in particolare tratta anche poi una tematica che è piuttosto interessante, nel senso che è la storia di Marie Curie. Se non sapete chi è, mi sembra improbabile. Comunque, sente, Marie Curie è una persona, una scienziata polacca che però ha vissuto a Parigi praticamente tutta la sua vita, ha preso 2 premi Nobel, quindi roba non da poco, e sostanzialmente è una di quelle scienziate che hanno studiato a fondo i fenomeni legati alla radioattività. In particolare, lei ha iniziato i suoi studi su queste che erano l'argomento del, diciamo, di dibattito scientifico di allora, cioè queste materie fosforescenti, sostanzialmente quelle che emettevano una luce di per sé, tipo ad esempio l'uranio. E niente, la sua vita è trascorsa così da scienziata. In realtà poi è morta per diciamo le malattie legate allo studio di queste cose, che allora non si sapeva che facevano male, cioè o quando è andata a farvi raggi X in ospedale vi mettono, no? Quello che lo fa si mette la pettorina, anche voi vi proteggono in qualche modo, e non è che vi fate un raggio X tutti i giorni, perché questo fa male alla salute. Esatto, loro non lo sapevano e aggeggiavano tutte queste cose, avevano percepito in realtà che c'erano dei lievi, diciamo, arrossamenti sulla pelle, erano urticanti sulla pelle, la potevano bruciare, non avevano capito che faceva ben di peggio. E questo è quanto. Quindi la storia, diciamo, di Marie Curie si inserisce un po' nella storia della fisica contemporanea, in particolare della fisica atomica. Ed è una storia interessante, così come viene trattata, perché sostanzialmente viene presentata anche tutta una parte molto intima, personale della vita di Marie Curie, e anche degli aspetti che io ad esempio non conoscevo, cioè nel senso che ho appreso ad esempio da leggendo questo fumetto che sostanzialmente tutta la sua vita è stata costellata, vabbè, uno da questo grande amore per Pierre Curie, che era sostanzialmente un altro scienziato con il quale lei ha condiviso parte dei propri studi, del proprio lavoro. Lui si occupava in particolare in realtà di cristalli, studiava i cristalli, poi quando si sono messi assieme hanno iniziato entrambi a studiare appunto i fenomeni della radioattività. E a un certo punto della loro vita il marito muore, e lei rimane sostanzialmente da sola, e qui c'è la parte che io non conoscevo, nel senso che rimasta da sola lei intraprende, dopo alcuni anni di depressione secca, una relazione con un altro fisico che conosceva da tempo, il quale però aveva questa particolarità, che era già sposato con figli, e quindi allora era una relazione, diciamo, da amanti. Lui era Paul Lanvin, e sostanzialmente questa relazione fece molto scandalo all'epoca, in particolare sulla stampa, diciamo, borghese dell'epoca. Lei venne presentata come la rovina famiglie, come la polacca che viene a rubarci gli uomini alle donne francesi, e veramente con questi toni. C'è da dire che questa, diciamo, parte della stampa francese si era già mobilitata contro la sua figura, essenzialmente perché lei era una donna scienziata, e allora quello che si pensava riguardo alle donne scienziate è che una donna scienziata non avrebbe potuto sostanzialmente assolvere ai propri compiti di donna mamma, donna che cura la famiglia, che sta dietro ai figli, eccetera. Che all'epoca, oggi probabilmente un ragionamento sdoganato, anche se non ci giurerei tantissimo, però per l'epoca era una roba che veniva proprio osteggiata anche da un punto di vista meramente teorico. Cioè si diceva, certo, però così si va a minare l'istituto fondamentale della famiglia e ci salta tutta la società. Cioè, se te vuoi fare la scienziata, poi non c'hai tempo per fare quello che dovresti fare. E infatti quando sostanzialmente era stata proposta la sua candidatura all'entrata dell'Accademia delle Scienze francesi e sostanzialmente c'è stato tutto un movimento di stampa che la osteggiava dicendo qui se ne passa una, capito? Poi vogliono farlo tutte questa roba qui. E come facciamo? Poi non abbiamo più la moglie a casa che cucina, si torna a casa la sera, non c'è la cena. Cioè, è tremenda questa cosa. E quindi sostanzialmente la sua candidatura, nonostante poi abbia vinto due premi Nobel, è saltata. Cioè è saltata, nel senso che l'Accademia delle Scienze Francesi, cioè l'equivalente, insomma, ha rifiutato la sua prima candidatura. Quindi già gli stava parecchio antipatica. Poi quando c'è stata anche questa cosa della relazione, diciamo, con questo uomo sposato, diciamo, è stata proprio sbattuta in prima pagina, cioè quei giornalisti che la assediavano sotto casa, la gente che gli insultava, la minacciavano, cioè, e questo è stato abbastanza strano perché avveniva proprio nel momento in cui vinceva il suo secondo Nobel. E quindi cioè, si trovava a vivere una vita sostanzialmente divisa: da una parte gli davano i premi, e dall'altra gli davano, capito, della rovina famiglia. E questo è quanto. Io, tutta questa parte di gossip, che poi è veramente gossip perché sui tabloid francesi veramente veniva presentato come lo scandalo, no? Era stato da alcuni particolarmente inviperiti con lei, era proprio presentato come lo scandalo del secolo, perché comunque è un personaggio molto, molto, molto noto lei. E è interessante comunque che poi alla fine diciamo, questa storia si traduce in qualcosa di molto miserabile, cioè sostanzialmente viene messa a tacere come si usava all'epoca sostanzialmente col danaro, nel senso che Marie Curie paga la moglie di questo qua per smetterla di infamarla sulla stampa. E quest'uomo torna poi a vivere con la moglie e nota di colore sempre gossip, dopo 2 anni dalla fine della relazione con Marie Curie, lui intraprende un'altra relazione con la sua segretaria, questa però approvata dalla moglie perché evidentemente la segretaria andava bene e Marie Curie no, non si sa. E questo è quanto. Il fumetto è uscito per Becco Giallo, ve lo potete trovare, insomma, penso che ci sia anche nelle biblioteche. I disegni sono, secondo me, molto, molto, molto belli. Sono tecniche un po' miste e con molto uso dell'acquerello e a me piace parecchio, quindi vi consiglio anche a voi di leggerlo. E ora continuiamo ad ascoltarci i Black Merda. Your mind, and that's where your life begins. E torniamo da queste belle voci calde alla mia voce un po' così e così per parlare di WikiLeaks. WikiLeaks sostanzialmente ha annunciato, dopo mesi di rilascio di questo coso che aveva chiamato in codice Vol 7, cioè sostanzialmente della documentazione relativa a un leak della CIA sostanzialmente, cioè di strumenti che la CIA aveva a disposizione, strumenti informatici che la CIA utilizzava per condurre le proprie operazioni. Ecco, mesi fa WikiLeaks ha iniziato a pubblicare documenti relativi all'infrastruttura tecnologica che la CIA ha proprio a disposizione per controllare, diciamo, i nemici degli Stati Uniti e anche i signori statunitensi interni. E adesso ha annunciato l'inizio di Vault 8, cioè Vol 8. Che sostanzialmente prevede l'inizio del rilascio del codice, cioè finora hanno rilasciato soltanto documentazione e pochi rilasci di codice. Avevano rilasciato qualcosa che era mesi fa, non mi ricordo bene, era relativo comunque a delle librerie che loro utilizzavano sostanzialmente per ripulire le stringhe, cioè quello che rimane di comprensibile all'uomo all'interno di un eseguibile, una roba del genere, non me lo ricordo bene. E ora hanno rilasciato, e pare che rilasceranno più spesso in questo Vault 8 del codice, hanno rilasciato invece il codice relativo sostanzialmente all'infrastruttura Hive. Come avevano spiegato già, cioè come si capiva anche già dagli altri documenti, è sostanzialmente questa infrastruttura che si basa su il traffico web normale, con alcuni server web sostanzialmente, come specificato, stati da servizi commerciali, quindi dei siti sostanzialmente che uno può visitare, e che però dietro hanno in realtà un accesso tramite una VPN, cioè tramite un accesso cifrato, diciamo un canale cifrato che fa capo da una parte a questi server pubblici finti e dall'altra a un'infrastruttura più coperta della CIA, un'infrastruttura più nascosta, insomma, che non emerge. E come viene utilizzata questa cosa? Sostanzialmente viene utilizzata per raccogliere informazioni da quelli che loro definiscono implanted host, cioè dei marchi ingegni, tipo i vostri cellulari o i computer o comunque delle strutture, cioè delle cose che si collegano all'internet in qualche modo. E li usano per farli comunicare con questi, cioè che una volta che è stato installato, diciamo, su questi implanted host, questo software cosa fa? Comunica con dei siti web, quindi del traffico legittimo e poco difficile da comprendere, e del traffico anche che apparentemente non contiene dati sensibili, cioè non è traffico troppo strambo, è traffico normale. Però all'interno di questo traffico normale cosa succede? Se ci sono delle condizioni, cioè se diciamo ci sono hanno delle specie di attivatori, come non saprei come definirli, insomma ci sono delle cose nascoste in questo traffico normale, delle cose celate, che se passate all'infrastruttura della CIA estraggono una serie di informazioni che poi vanno a comunicare sostanzialmente a un server chiamato Honeycomb che le raccoglie e poi le immagazzina da qualche parte oppure fa delle cose. Ora, per rendere più comprensibile questa cosa, che mi rendo conto non sono stato chiarissimo, sostanzialmente l'idea è quella di nascondere all'interno del normale traffico web SSL, cioè del traffico quello che è definito di solito dell'HTTPS, no? Dove S sta per secure, quindi il traffico cifrato web, che è quello che utilizzate anche normalmente per leggere voi la posta dal web, quando fate gli acquisti, no, con la carta di credito vi mandano in HTTPS. Ecco, questo tipo di traffico in questo tipo di traffico, però è nascosto molto di più, è praticamente utilizzando dei meccanismi appunto di forwarding di questo traffico a degli application server dedicati, è possibile mascherare in questo traffico abbastanza, cioè, legittimo e poco appariscente dei meccanismi che sostanzialmente sono due, cioè loro lo utilizzano per raccogliere i cosiddetti beacon, cioè questi biscottini, queste cosine che sostanzialmente sono delle piccole informazioni, no? Cioè, che ne so, dove ti trovi in quel momento, dove si trova, cioè, l'implante d'host in quel momento, che cosa fa, e cose simili. L'altra cosa più interessante che fanno è quella di riuscire a stabilire un canale di controllo e comunicazione, sostanzialmente tra, degli operatori CIA e questo implante d'host, cioè io vi installo questa cosa sul cellulare e poi, oltre a poter prendere informazioni dal vostro cellulare e veicolarle attraverso questa struttura che nasconde, no? Dove vanno veramente le informazioni e che informazioni sono, posso anche aprire un canale di controllo che mi apre sostanzialmente un terminale, chiamiamolo così, sulla vostra macchina e poi posso mandare comandi, cioè posso decidere, che ne so, che il vostro cellulare fa una chiamata, oppure posso guardare semplicemente cosa fate direttamente dal vostro apparecchio. Posso fare, insomma, tante cosine, cioè posso prendere controllo della vostra macchina e poi utilizzarla come meglio credo. Ecco, Wikileaks ha rilasciato il codice sorgente, quindi il codice in C con cui questi oggetti sono fatti, è un po' un mischione, neanche, beh, non troppo mischione, c'è, cioè, roba in C e poi ci sono delle, diciamo, degli script in Python per rendere il tutto più utilizzabile, sembra. Hanno rilasciato sostanzialmente il codice dell'infrastruttura, quindi questo codice non pertiene, cioè non ha di per sé degli exploit, degli attacchi o delle cose, è semplicemente la parte di back-end, cioè come loro raccoglievano le informazioni, che comunque non è una parte indifferente. È un codice neanche troppo grande, molto, molto compatto, sembra a scorrerlo così dal sito. Si compone appunto delle varie componenti che vi ho citato prima. Sul sito di Wikileaks, peraltro, potete vedere la documentazione che avevano già rilasciato e confrontarla con quello che c'è scritto nel codice, se siete in grado, cioè riferire, che ne so, si vede nel disegnetto che trovate sui documenti di Wikileaks, citato questo Oneicomb, che è questo server che raccoglie le cose, cioè questo demone che sta lì in ascolto. Ecco, questo Honeycomb c'è il rispettivo codice anche nel pacchetto che, diciamo, nei sorgenti che sono stati rilasciati. Ci sono poi, c'è la parte di client, la parte di server, insomma, sembra interessante da studiare. Almeno così, per sapere come fanno, o se siete curiosi, come fa la CIA a fare questa cosa. E mo lo potete vedere, se sapete il C e un pochino, insomma, questi un qualche linguaggio di programmazione, vi mettete lì, vi applicate, studiate e poi siete, capito? E poi, se volete mandare il curriculum alla CIA, lo potete mandare, comunque sapete già, capito, come è già il lavoro, già arrivate un pochino avvantaggiati, no? Infatti. E ora ci torniamo ad ascoltare un po' di musica e poi magari si va a chiudere con l'ultima notiziola e poi ci si vede, ci si sente la prossima settimana, in cui vi rianticipo, ci sarà appunto il mega report sia di quanto avvenuto a Bologna presso l'XM24, dove si è svolto la settimana scorsa Ecordai, che era appunto questo incontro di convention, no? Incontro di hackers italiani, e anche quello che si sta anche il report di quello che si sta svolgendo ora a Milano, dove io non ci sono, ma i nostri inviati invece sì. Eccoci, torniamo da queste sonorità dei Black Murder, a me piace di più i Black Merda, perché lo devo dire all'americana, visto che merda ha un significato in italiano, è più bello, se loro gli piace di chiamarsi così, io li rispetto un sacco per questo. E tra l'altro è una band della Madonna, nel senso che era una band di Detroit, che è stata attiva per tantissimo tempo, ha suonato per 10 anni, e poi c'è stata anche una reunion negli anni 2005-2006, non mi ricordo più. Comunque è una delle prime, diciamo, rock band composte soltanto da persone di colore, e che facevano questo sound molto bellino, secondo me. E niente. L'ultima notizia con cui andiamo a chiudere è sostanzialmente una cosa che a me mi ha fatto abbastanza buffo e di cui volevo parlarvi, nel senso che è venuto fuori, non è che sia proprio una notizia clamorosa, però è buffa. Stanno uscendo, ma è da sempre che è così, però ultimamente ne escono parecchie, questi tool per hackerare. Questi tool, diciamo, se voi cercate in giro hacker tool, trovate già delle cose già fatte, no? È abbastanza tipico della comunità hacker, questa cosa di mettere a disposizione delle persone i propri tool per l'hacking, perché tutti li possono usare, no? Ce ne sono alcuni che sono sviluppati anche da aziende a scopo professionale, ma sono comunque diciamo disponibili a tutti, tipo, che ne so, i più noti sono Metasploit, oppure c'è quell'altro, come si chiama, Imperium, Imperium mi sembra si chiama, o Impero, forse sono Impero. Comunque ci sono tutta una serie di tool. In particolare c'è anche una distribuzione Linux che potete prendere e scaricarvi se volete trovarli tutti quanti assieme, quelli disponibili per Linux, che si chiama Kali Linux. Ce ne sono anche altri progetti oltre a questo, insomma c'è un sacco di roba. Io vi ho citato dei nomi così, i più famosi, e via così. Però a volte capita che nei forum di hacker uno butta lì una cosa e dice: oh guarda, ho fatto questo, è for free, usalo. E effettivamente quell'oggetto magari fa anche quello che deve fare, ma non solo quello, nel senso che se tu non hai guardato bene cosa stai utilizzando, sei un hacker che viene hackerato da altri hacker, che è comodissima questa cosa, peraltro, nel senso che immaginate che voi siate degli hacker novelli e volate costruire, bucare una vostra botnet e bucate un sacco di macchine, tantissime, no? Poi volete bucarne altre, allora cercate dei tool nuovi, però li lanciate a caso senza guardare bene cosa fanno. Ecco, supponiamo che io buchi la vostra macchina a cui voi avete messo già l'accesso, no? In qualche modo già è all'interno e comanda la vostra botnet di migliaia di macchine. Io in una botta sola sostanzialmente acquisisco anche tutti i vostri risultati, quindi acquisisco anche tutta la vostra botnet, tutto il vostro lavoro. E questa cosa era già successo in passato per alcuni tool, e adesso è segnalato, diciamo, è uscito nel mondo di quel buffo mondo della security informatica, che girava questo tool utilizzato per sfruttare una vulnerabilità già nota, diciamo, quindi non era uno zero day, era una cosa già nota di alcune telecamere, quelle che si collegano all'internet, no? Le telecamere, diciamo, cosiddette internet connected IP camera. Questo tool utilizzava una vulnerabilità di un server embedded, cioè di un oggettino che è stato scritto per stare sulle EEPROM, di queste telecamere, cioè qualcosa che è direttamente nell'hardware di come quando ve lo vendono già con il web server embedded, e si chiama GoAd, questo oggettino che utilizzano come web server. E beh, c'erano alcune vulnerabilità note, e quindi sostanzialmente questo tool, diciamo, fa lo scanning di una rete, cerca se ci sono delle telecamere di questo tipo, se ci sono le buca, e vi dà, diciamo, l'accesso a queste robe. Ma non solo, nel senso che le trova le telecamere e tutto funziona a modino. Ma nel frattempo aggiunge anche un account sul vostro computer. Un account essenzialmente. No, non è che ve ne informa, lo fa e basta. Quindi è quella che tutti nei fatti si può definire una backdoor, cioè vi backdora la macchina, piglia l'indirizzo IP della vostra macchina e poi esegue sostanzialmente una vi collega a una propria botnet. E quindi indirettamente voi diventate, cioè pensavate che eravate voi l'hacker, ma in realtà c'è un hacker, più hacker di voi, che vi ha bucato anche la macchina. E quindi in automatico diventate un nodo della sua botnet. Ma non solo, se voi da quella macchina lì ci avete anche la vostra di botnet, praticamente in una botta sola lui aggiunge tutti i vostri nodi anche. Che è fighissimo, no? Cioè, non è che li aggiunge in automatico, però di fatto viene ad avere accesso a tutte le vostre informazioni di hacker. E questo è quanto. E quindi niente, volevo concludere questa puntata dicendo: state attenti agli hacker tool che vi scaricate, perché poi altrimenti vi si ritorce contro tutto. Perché comunque siamo in un mondo difficile, capito? È così. Non bisogna fidarsi di nessuno. Funziona così. Attenti, attenti quando uscite di casa, attenti, perché è così, funziona così.